Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sì, li vivrò con te. Cara Debora, oggi il buongiorno ce lo dà una voce magnifica che tutti avranno sicuramente riconosciuto, è quella di Andrea Bocelli, che secondo i ben informati si esibirà, vedi che abbassavo la voce, si esibirà il 20, no, perché insomma si dice il 20 gennaio alla cerimonia di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. E Debora, forse tra poco arriverà un invito anche a noi, magari. Ma guarda, non tu si sa mai. Io ci andrei, però vorrei andare, diciamo, il mio sogno, più che di andare a vedere il potenziale concerto di Andrea Bocelli all'insediamento di Donald Trump, vorrei andare a suonare la campanella di Wall Street. Esatto, non sono tanto romantica, esatto, però vabbè, sai, ognuno ha le sue perversioni. Comunque, la mia è questa. In attesa che arrivi l'invito a Debora per suonare la campanella, certo. E anche in attesa di saperne di più su questa cerimonia, raccontiamoci all'800 24 00 24 di quella volta in cui siamo stati invitati a festeggiare un'occasione particolarmente speciale. Insomma, qual è l'invito più emozionante, quello che portate nel cuore? Raccontatecelo. Battesimi dei nipoti, vabbè, ad esempio. Adesso che vuol dire? Esatto. Questo vuol dire. Ieri è stato a casa mia un grande compleanno, lo sai. Lo so, il grande dei nostri. Esatto. Allora, 349-238-6666, se volete scriverci, mandarci un messaggio, 800-24-0024 per gli interventi in diretta. Esatto, per naturalmente intervenire nella prima parte che sarà dedicata all'approfondimento di cuore per quello che riguarda i denari, e giovedì c'è Investire Informati, e rimarremo ancora negli Stati Uniti tra Trump e Wall Street, perché il mercato americano è il grande protagonista della fuga in avanti delle borse di queste ultime settimane. Oggi anche l'Europa sta replicando, molto ben impostata la situazione appunto europea, a Milano più 0,8%. Faremo un check-up di portafoglio di fine anno con il nostro Vittorio Gaudio del gruppo Mediolanum, e quindi naturalmente microfoni aperti anche oggi ai nostri ascoltatori. Quindi pronti ad accomodarvi nella nostra scuola di risparmio, e intanto che prendete posto buttiamo un po' un occhio alla scrivania, mandateci la foto. Noi abbiamo postato delle nostre, quella mia e di Laura Vanossi, di quella di Deborah e Marco, sono lì da vedere, anche da indovinare secondo me, e anche da pulire un po' magari. Qual è quella della donna di denari, qual è quella della donna di cuore, insomma immagino che già qualcuno mi dica: ma Nico, non siamo tutti in ufficio e quindi non abbiamo tutte le scrivanie. Certo. Allora, forza, anche voi, se siete agenti di commercio, rappresentanti, camionisti, se il vostro ufficio è l'auto, il camion, fatevi un selfie, lasciateci sbirciare, e naturalmente noi allarghiamo l'invito a tutti voi, perché oggi vogliamo capire quanto l'ordine e il disordine invadono il nostro luogo di lavoro, e soprattutto che cosa ci raccontano di noi. E oggi abbiamo il piacere di avere una grande esperta che ci guiderà, la dottoressa Tatiana Torti, psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Debora, buongiorno a tutti voi. Allora, dottoressa Torti, iniziamo a capire che differenza c'è tra ordine e disordine, e soprattutto partiamo dal cervello. Che cosa accade nel nostro cervello quando mettiamo in ordine? Allora, diciamo che il tema sembra lineare e semplice, in realtà non lo è, perché è molto complesso e ha parecchie sfumature, e le affronteremo nel corso della chiacchierata. Allora, prima di tutto il verbo ordinare cosa vuol dire? Implica l'azione del sistemare, del categorizzare. Quando agisco per mettere in ordine una scrivania, un salotto, per sistemare dei documenti, pensiamo al lavoro, allo studio, nel nostro cervello cosa succede? Si attivano due aree principalmente, l'area coinvolta nella pianificazione e dall'altro lato l'area delle abilità spaziali, perché appunto io ho a che fare con uno spazio, quindi si attivano entrambe queste aree, e che corrispondono più nello specifico a un'area prefrontale e all'area più profonda, che si chiama mesiale del nostro cervello. Questo significa prima di tutto che il nostro cervello si attiva per risolvere un problema, quindi io devo, come ogni compito ci richiede, devo affrontare un problema, devo classificare in base a obiettivi e priorità e quindi devo compiere delle scelte e rimanere concentrato sino a quando non ho raggiunto il mio obiettivo. Quindi ordinare è già un'azione di per sé abbastanza complessa, implica peraltro altre funzioni cognitive come la memoria di lavoro, quella che agisce appunto nel breve termine, la pianificazione. Quindi ecco, per questo si fa fatica, perché è così complessa. Intanto ordinati 800 24 00 24, disordinati il numero verde è identico. Dottoressa Torti, facciamo un esempio pratico. Decido di sistemare la mia scrivania, esatto, poi passo a quella di Deborah. Sì, allora dovrò pianificare, cioè decidere cosa lasciare e cosa togliere. Tutti noi partiamo da questa domanda: che cosa devo togliere, cosa devo lasciare? Chiaramente rispondiamo in base alle esigenze del momento e al contesto. Per esempio, io posso avere una scrivania apparentemente disordinata a lavoro e molto ordinata a casa, ma questo perché? Perché magari a casa non lavoro e quindi avrò bisogno di pochissimo materiale, mentre a lavoro avrò bisogno di tenere sotto controllo diversi compiti e quindi diverso materiale. Certo. Allora, apparentemente disordinata, ma magari non lo è, magari è semplicemente piena e ordinata in base alle preferenze del soggetto, alle priorità. Quindi vediamo che il contesto indica sostanzialmente qual è il tipo di ordine o disordine. Possiamo fare anche altri esempi. Se io devo ordinare il mio piccolo armadio del bilocale in città, sarà diverso dall'ordinare il mio grande guardaroba della casa di campagna. Cioè, nel bilocale sarò costretta in qualche modo a eliminare il più possibile, quindi ragionerò nell'ottica dell'eliminazione. Invece nella casa di campagna, nella mia grande casa di campagna, con un grande guardaroba, potrò ragionare in termini più conservativi. Quindi vediamo che l'ordine e il disordine già assumono delle sfaccettature diverse in base al contesto e agli obiettivi che ci poniamo. Allora, è comunque un'azione particolarmente complessa che mette in moto delle aree del cervello e per ordinare ci vuole tempo, tanto che si dice che chi è troppo ordinato sia una persona tendenzialmente lenta, un po' Barra di Pesca, è corretto? È corretto. Da allora, Bradipo. Ordinare... No, Deborah, Barra di Pesca, mi ha guardato come per dire... No, ma ho capito, Barra di Pesca, cosa dice? Barra di Pesca, da Bradipo, lento, un animaletto molto carino, tra l'altro. Dubbio che implica un investimento di tempo in questa attività, in questo comportamento, e allora talvolta può apparire, no, il discorso del perdere tempo e sembrare lenti. In realtà tenere in ordine, ma non essere iperperfezionisti, quindi l'ordine vedremo che poi è diverso dall'ipercontrollo dal perfezionismo, tenere in ordine, dicevo, può favorire la velocità, questo nel lungo termine, quindi se io lascio le cose abbastanza ordinate, tendenzialmente avrò più facilità a trovarle, sarò più veloce dopo. Ovviamente il troppo ordine, come stavo dicendo prima, implica uno spreco di tempo, ma stiamo parlando di un troppo ordine. E allora talvolta dobbiamo essere in grado di sacrificare un po' l'ordine in base alle urgenze, alle situazioni di emergenza. Facciamo un esempio. Se di punto in bianco sono costretta in questo momento a dover prendere un aereo per un'urgenza, devo preparare la valigia al volo, non posso badare molto all'ordine, altrimenti perdo l'aereo. Quindi in questo caso si parla appunto di flessibilità. Certo. Se devo invece mantenere un lavoro di precisione, per esempio pensiamo alla contabilità, è chiaro che dovrò agire in modo più ordinato, con più metodo, essere più controllante e quindi anche un po' più lenta. Però ordinare non è un sinonimo di ipercontrollare, quindi facciamo questa differenza. La lentezza di un ordinato non dovrebbe mai essere invalidante o interferente con la qualità di vita, cioè devo fare le cose in maniera giusta, controllata e ordinata, ma non perderci troppo tempo. Se perdo troppo tempo c'è qualcosa che non va, se perdo treni, se arrivo tardi al lavoro o se al lavoro non riesco a finire le cose per tempo, c'è qualcosa che ecco, se l'ordine diventa quasi una mania, dico di più, un'ossessione, allora esatto. Potrebbe suonarci quel campanellino che Deborah vorrebbe suonare. Che non è quello di suonare. Wall Street, già qualcuno 800 24 00 24. Se volete intervenire, intanto ci state mandando le vostre scrivanie, potete mandarci un'immagine anche via WhatsApp. Ma dottoressa Torti, lei ha introdotto un aspetto, ha parlato di controllo. Spesso le persone ordinate, in qualche modo, quando diventano molto ordinate, quando l'ordine un po' ingabbia la loro vita, riflettono una sorta di ansia di controllo. Tengo tutto in ordine, sì, in modo che ho proprio tutto sotto controllo. E allora noi ci siamo ci stiamo occupando della scrivania, perché da qui siamo partiti, ma vogliamo estendere naturalmente anche a tutti i luoghi di lavoro, alla nostra casa, al nostro modo in cui ci relazioniamo all'ordine e al disordine, alle cose, all'ambiente in cui viviamo. Dottoressa Torti. Beh, allora è vero che essere ordinati può essere il segnale di un'eccessiva ansia, a volte può essere questo. Se io sono molto ordinato, forse devo avere ho bisogno di avere tutto sotto controllo e ho un po' paura ad affrontare le novità, l'ignoto, può essere. Ordinare vuol dire prepararsi prima, se uno ci pensa, no? Preoccuparsi. Certo. Ovviamente la preoccupazione è sinonimo di ansia, quindi è molto semplice l'equazione. Ricordiamo che non è sempre così in realtà. Può esserlo, pensiamo anche semplicemente a un bambino troppo ordinato. Un bambino sì. troppo ordinato a scuola, che può essere in realtà un po' impaurito dal rischio di essere giudicato, di essere valutato negativamente, il quaderno, la cartella. Ci sono tanti ambiti in cui possiamo valutare ed espressione di questa paura. Quindi diventare un'ansia eccessiva? Sì, può diventare. Può diventare. Così. E così anche magari possiamo dire più o meno la stessa cosa anche del disordine, le persone che vivono in un disordine diffuso e che dicono beh, ma in questo disordine io ho il mio ordine, ma in effetti entrando a casa loro oppure guardando la loro scrivania, il luogo di lavoro, anche la macchina, uno mette la testa e dice oddio come fa a muoversi, dottoressa Torti. Assolutamente sì, noi pensiamo sempre a un continuum, i due eccessi, quindi eccessivamente ordinato ed eccessivamente disordinato, non sono mai un buon segnale. Se io sono eccessivamente disordinato, hai fatto un giustissimo esempio Nicoletta dell'auto per esempio, e c'è qualcosa che non va, se l'auto diventa un accumulo di cose magari anche inutili, c'è qualcosa che non va. Noi pensiamo in realtà che il disordine può essere anche a livello emotivo, quindi tra le emozioni, certo. nei pensieri, quindi parliamo di cose pratiche, concrete, ma anche di aspetti un pochino più apparentemente nascosti, ma che esistono, perché poi tutto quello che facciamo riflette quello la nostra emotività, quello che sentiamo. Pensieri. Domenico esatto. ci scrive: carissime, le mie cose sono sistemate in ordine rigorosamente casuale. La dottoressa Torti ha parlato di bambini. Voi eravate dei bambini ordinati o disordinati? E i vostri bambini andremo a sbirciare anche nei quaderni dei nostri figli, dei nostri nipoti. Lo faremo tra poco con un altro ospite che ci verrà a trovare, ma intanto la dottoressa Tatiana Torti resta con noi e viene con noi a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Cuore e denari. Ci dicevano, insistevano di studiare, che da grandi ci sarebbe stato utile sapere le cose che a scuola andavamo a imparare, che un giorno avremmo dovuto anche lavorare. Ordinati e disordinati a scuola, come eravate e come sono i quaderni dei vostri figli, le loro camerette, ne parliamo tra poco, ma intanto restiamo sulle nostre scrivanie, nei nostri luoghi di lavoro. Ci accompagna la dottoressa Tatiana Torti e in linea abbiamo Silvia che ci chiama da Bologna. Buongiorno Silvia. Sì, buongiorno. Io avete suscitato un ricordo di qualche anno fa quando avevo i bimbi molto piccoli e c'era sempre il problema delle visite all'ultimo momento, cioè senza preavviso. E io avevo sempre la casa sottosopra con i bambini, i loro giochi in giro, tutto in giro. Io avevo delle ceste, quelle per raccogliere il bucato, e facevo il giro in ogni ambiente e ci mettevo dentro quello che non doveva stare in quell'ambiente, quello che non doveva stare in cucina, quello che non doveva stare in sala, quello che non doveva stare in bagno, e chiudevo tutto dentro un armadio. E poi con calma dopo la visita riuscivo a sistemare. Però è vabbè, stato un quella metodo... è la sopravvivenza. Però anche un metodo efficace per rendere certo. la casa, diciamo, decente per la visita di un estraneo in poco tempo. Per mi togliersi, ecco, togliersi di mezzo balocchi, giochi e tutto il disordine che i bambini sono capaci a creare in un momento. Esatto. Devo dire, forse imitando anche un po' noi, perché... Grazie Silvia per questo suggerimento. Dottoressa Torti. Beh, devo dire si che nasconde sotto il maniera... tappeto. Devo dire che sì, Silvia agiva nella maniera più efficace, è vero, non c'era tempo, quindi ecco qui il criterio per ragionare, per ordinare è proprio quello, raccolgo tutto, metto via e poi sistemerò con calma dopo, ma in qualche modo lei già sta facendo una categorizzazione, no? Decideva quali cose non dovevano stare in quella stanza, le toglieva e poi dopo avrebbe sistemato con calma, quindi era prendendosi tempo. Prendendosi e allora, tempo. Ed è arrivato il tempo di salutare il professor Giacomo Stella, professore di psicologia clinica all'Università di Modena e Reggio Emilia, fondatore dell'Associazione Italiana Dislessia. Professore, buongiorno, grazie per essere essere con noi. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Allora, parliamo di bambini. Suo figlio, sì, io me lo sentivo sempre dire, disordinatissimo, scrive male, non rispetta i margini, perché anche nei quaderni, professor Stella, anche l'occhio vuole la sua parte, un compito ordinato predispone più favorevolmente, però ci impresti il suo occhio clinico per guardare un po' le pagine dei quaderni dei nostri bambini. Parliamo di bambini del primo ciclo di scuola elementare, siamo quasi a Natale e anche i più piccoli, quelli che hanno iniziato a frequentare la scuola quest'anno, sono già in grado di fare dei bei compitini, però non sempre i loro quaderni sono precisi. Sì, perché in realtà la scrittura è un compito molto specifico dal punto di vista visuografo-motorio. Le lettere sono dei piccoli disegni, in sostanza, che devono essere riprodotti sempre con la stessa dimensione. Certo. Perché e questi si chiamano rapporti topologici, cioè all'interno di una figura, perché diventi un quadrato e non un rettangolo, bisogna che i rapporti topologici fra i lati siano di un certo tipo, ecco, o perché non diventi un cerchio invece che un triangolo. Allora, nelle figure macro, quindi dove l'atto motorio può essere fatto in modo molto evidente, è più facile, ma nelle figure micro, come la scrittura, è un po' più difficile, quindi ci vuole un po' di più tempo. È vero che oggi si parla molto del fatto che i bambini vengono poco esercitati a scrivere a mano. Sì. Questo è vero, per cui è evidente che di fronte a un esercizio più ridotto, le capacità di scrivere, di rappresentare queste figure si manifestano più lentamente. Io consiglio sempre. Sì, perché noi intanto andiamo sempre ai consigli pratici. Esatto. Io dico sempre, prendete dei quaderni in cui sia ben evidenziato lo spazio dentro cui volete che i bambini lavorino. Sì. Quindi, per esempio, oggi ci sono anche dei quaderni che hanno un binario con una ombreggiatura interna di colore diverso rispetto al binario su cui non si deve scrivere. Questo è un elemento di facilitazione, aiuta il bambino a capire quali sono i contorni. Secondo punto, la doppia riga, cioè sotto e sopra, aiuta il bambino a capire e quindi a, perché l'atto motorio deve essere modulato, cioè io devo fermarmi a una certa altezza. E se ho un indicatore esterno, cioè la riga che mi aiuta a fare questo, questo è più facile. Mentre oggi c'è la tendenza a dire scriviamo sul foglio bianco. Questo non favorisce la capacità di utilizzare lo certo, spazio. Quindi sul foglio. Infatti si usavano, adesso non so più come fanno nelle elementari, cosa? Ma le righe di prima elementare, ah, sì, quella certo, di seconda, in modo che nello spazio il bambino si abituasse. Professor Stella, dalla scrittura al disegno, qui possiamo coinvolgere anche i bambini che frequentano l'asilo, le mamme, le maestre. Io coinvolgerei i bambini che frequentano l'asilo anche sulla scrittura, però. Ah, bene. È proprio lì che invece si potrebbero fare delle cose che una volta si facevano in prima primaria, no? Lei cioè dice anticipiamo? Esercizi. Quindi? Anticipiamo non l'insegnamento della scrittura, a parte che si anticipa ormai quasi spontaneamente, perché ma anticipiamo l'attività di grafismo. Nella scuola dell'infanzia si fanno mille attività e si fa troppo poco grafismo e troppo poco linguaggio. E quindi questo può essere anche un consiglio da dare ai genitori. Quindi assolutamente. Fate scrivere in modo molto terra terra, fate scrivere i vostri bambini, professore Stella. Sì, per esempio, vede, nella scuola d'infanzia utilizzano i fogli bianchi per fare i disegni. Sì, ma si potrebbero utilizzare anche dei fogli che abbiano le righe orientate per insegnare ai bambini a fare delle figurine, dei disegni o anche delle lettere o anche a scrivere il loro nome dentro un determinato spazio per abituarli, ecco, alla modulazione del quindi grafismo. Quindi no al foglio movimento bianco, ma per gli inizi ci vogliono un po' dei bastoncini, un dei supporto, dei riferimenti. Allora il quadretto, la riga. Professor Stella, in 30 secondi, bambini che stanno esattamente dentro i bordi del disegno, sembrano quasi fare dei dipinti, e altri invece che proprio i bordi non li vedono neanche. Sì. Come genitore, allora, abbiamo un minuto, che cosa... Sì. Allora, intanto per il disegno do l'indicazione opposta, foglio bianco. Sì. E non fogli con tante. Certo, se uno vuole aiutare un bambino a disegnare una casa può mettere dei fogli a quadretti, ma senza grandi indicazioni, insomma, sì. No? Il disegno è una cosa complessa perché vuol dire costruirsi una mappa mentale che poi deve essere tradotta attraverso degli atti grafomotori. Se io non ho, il problema è ho la mappa mentale oppure no? Allora, se non ho la mappa mentale, il bambino va aiutato a disegnare facendo porzioni di disegno, cioè ti aiuto. Faccio un esempio banale. Io non abbiamo più tempo, sì, vada professore. Va bene, comunque io faccio la faccia, tu ci metto un occhio, tu ci metti l'altro, quindi ti aiuto a cogliere le proporzioni. Grazie, questa indicazione mi è chiara. Professor Stella, grazie, noi restiamo con la dottoressa Torti, ci sentiamo tra poco. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Ti piace? Dopo Bocelli andiamo in Inghilterra perché è proprio lì che vive. Chi? Tim Harford è un economista che ha appena pubblicato un libro che fa al caso nostro e che ha ispirato un po' questa puntata. Il titolo la dice lunga: Disordinato, il potere del disordine nel trasformare le nostre vite. Lui, Deborah, non ha dubbi, per il tuo amico economista il segreto del successo è proprio il disordine, della serie Genio e Sregolatezze. Voi siete naturalmente, sottolineo naturalmente, ordinati o disordinati? Ne stiamo parlando con la dottoressa Tatiana Torti, che è ancora in linea con noi. Dottoressa, possiamo salutare intanto Diego dal Giappone, se non altro per il luogo da cui ci manda il suo messaggio. Certo, come lo salutiamo, dice... in italiano però. Ah beh, ovviamente sono talmente ordinato che quando non trovo qualcosa che sono sicuro di aver messo in un certo cassetto divento matto, dice. Dottoressa Torti, andiamo a salutarlo, è pericoloso, andiamo un attimo in Giappone. Ma non è pericoloso, magari ecco, appunto, dovrebbe mettersi dei ricordi, magari creare delle emozioni legate all'ordine che fa. Quindi no, devo riporre, poi non so nello specifico di cosa si tratta, ma può anche modificare un po' l'ordine che lui si è prestabilito. Non trovare le cose non è sempre un buon segno, mette in difficoltà, no? Antonella ci chiama invece dalla provincia di Pavia. Buongiorno Antonella, benvenuta. Buongiorno, grazie, buongiorno a voi. Ordinato o disordinata, si confessi? Ma allora, io diciamo borderline. Brava. Nel senso che nel mio disordine trovo tutto, però chiunque si approccia non riesce a trovare niente, ovviamente. Vabbè, è una cosa di molto personale, molto intima. Infatti. Niente, io ho chiamato perché volevo invece porre il quesito alla dottoressa Torti di mio figlio. Mio figlio ha 19 anni, appena diplomato. Ecco, quando io, che spesso sono fuori per lavoro in campagna, gli dico per favore fammi un po' d'ordine in casa, lui fa tutte le cose in una maniera veramente egregia, ordina, pulisce, e quando entri la casa non è più quella. Mentre invece quando riguarda le sue cose personali, in casa si dice quando Guglielmo ha in mano qualcosa lo può lasciare ovunque da qualche tanganica, cioè non si ritrova più niente, cioè le sue cose sono introvabili, mentre quando deve effettuare un compito per la casa è perfetto. Ecco, allora sarebbe chiedere... già dottor Jekyll e Mr. Hyde un ragazzo sarebbe già un ragazzo da sposare, ecco. Lo tenga lì che è prezioso questo ragazzo. Per una mamma è una cosa bella da sentire, certo. No? Dottoressa Torti, a parte sposarlo, allora, sicuramente il ragazzo è un adolescente innanzitutto, quindi è probabile che abbia, no, ancora desiderio di esplorare le sue abilità. No, la sentiamo bene, la dottoressa Torti. Carmelo, pensaci tu. Carmelo. Gigante. No, riprovi, dottoressa. Sì, stavo dicendo, il ragazzo è un adolescente, no? Quindi comunque e ancora forse non ha sviluppato un modo coerente di riordinare. Una domanda che farei alla signora è: lui, il ragazzo, ritrova le sue cose? È in grado di trovarle? Perché questo è interessante, perché se gli altri non le trovano, ma lui sì, allora forse il suo ordine personale per le proprie cose risulta funzionare. Ecco, questa è un po' la cosa che fa la differenza. Intanto Antonella c'è ancora. Antonella, sì, è qua. Quindi è qua. Ecco, a questo magnifico figlio, se lui poi nel suo disordine le cose le trova, oltre che a pulire perfettamente la casa, altro che da sposare, gli diamo pure la medaglia. Ce lo saluti questo bel ragazzo. Grazie. Invece, dottoressa Torti, vorrei leggerle un messaggio di una mamma, Monica, che dice che sua figlia farà i 6 anni a Santo Stefano, ha iniziato la scuola con apparente tranquillità, ma è disordinatissima, astucci aperti, colori sparsi per la cartella, pieghe nei quaderni sono all'ordine del giorno, ma soprattutto scarabocchi ovunque, quaderni, astuccio, cartella, libri. Io lo leggo come uno sfogo, ci scrive Monica. Lei che ne pensa? Allora, non si sa se è uno sfogo, dovremmo valutare il caso con più precisione, diciamo questo, però sicuramente la bambina è piccola e va aiutata, come diceva anche il professor Rossella prima, è importante mettere dei limiti, i bambini piccoli vanno educati, in questo senso vanno allenati, io non mi preoccuperei, semplicemente chiederei alla piccola, con regole chiare e precise, di ordinare piccoli spazi, in partire dall'astuccio e poi appunto ridurre gli scarabocchi, però essendo specifici, scelgo 3 o 4 regole espresse in modo chiaro, da appunto sviluppare e portare avanti nel corso dell'anno scolastico. Ricordarsi che quando si chiede a un bambino o anche un adulto in generale di essere ordinati, bisogna essere specifici, lo ripeto, perché indicare chiaramente l'azione che dovrà ripetere nel tempo il bambino, per esempio metti in ordine la stanza è un'espressione molto generica, non aiuta il bambino a capire cosa realmente deve fare. E diverso è dire riponi il tuo gioco nella scatola rossa. Questa è un'indicazione molto molto più chiara, quindi pensiamo all'astuccio di questa bimba, riponi le penne rosse e le penne blu nel tuo astuccio, in modo molto chiaro, partendo da una singola azione e poi appunto generalizzando ad altre. Quindi dare delle indicazioni, e anche a noi stessi possiamo dare delle indicazioni, soprattutto quando il disordine ci sta inghiottendo. Intanto voi andate a vedere le foto delle nostre scrivanie, provate a capire qual è la mia e di Laura Vanossi, perché insomma la condividiamo, e qual è invece quella di Deborah insieme a Marco, e scriveteci. Dottoressa Torti, ci mandi anche la foto della sua, che così le confrontiamo. Ecco. Benissimo, lo farò. Grazie. E sulle pagine di Cuore Denari trovate un testo della dottoressa Torti che ci aiuta a capire se il nostro ordine è buono o se invece ci deve creare o suonare il famoso campanellino. Grazie, dottoressa Torti. Grazie a voi, buona giornata. Allora, noi siamo pronti. Siamo con la pronte. Cartella. Noi intanto, con grandissimo senso dell'ordine, ogni giovedì abbiamo portato avanti il nostro impegno della scuola di risparmio. Natale alle porte, cercheremo anche di dare così un po' un'occhiata a questi mercati che continuano a viaggiare in ordine sparso, tanto per continuare ad utilizzare i termini e i concetti che abbiamo esplorato questa mattina. Dicevamo Natale alle porte, allora che si fa? Pensiamo solo ai manicaretti con cui imbandire la tavola, oppure facciamo anche due pensieri sui nostri risparmi, magari invitando il nostro consulente a mangiare una fetta di panettone con noi? Eh sì, perché l'anno sta finendo e come sempre è tempo di bilanci, e con quello che è successo quest'anno sui mercati finanziari i bilanci forse vanno fatti in questa occasione con una cura particolare, soprattutto se il nostro gruzzoletto ha subito le oscillazioni dei mercati e in certi momenti ci siamo spaventati. Magari invece qualcuno brinda scelte di investimento azzeccate, se hanno per esempio riguardato, non so, la borsa americana che sta mettendo a segno un record dopo l'altro, ma intanto sullo sfondo rimangono tutte quelle variabili che abbiamo commentato tantissime volte in questi nostri giovedì dedicati alla scuola di risparmio: la politica monetaria della Banca Centrale Europea, della Federal Reserve, la variabile politica, la crescita economica di tutte le aree del mondo, qualche turbolenza politica qua e là, e poi la crisi bancaria italiana. Insomma, anche oggi abbiamo tanti argomenti di cui parlare nel nostro consueto appuntamento del giovedì.